Ebbene, Borderland per due grandi geni come Joanne Atkins e Moritz von Oswald, due personaggi insomma che non hanno particolari bisogni di essere presentati, seppur insomma un lavoro underground forse ancora rilega insomma volutamente anche alla ricerca sonora, ancora soprattutto insomma von Oswald con il suo lavoro col trio ha dato e sta dando ancora ottime carte in un gioco sperimentale, sicuramente porta assai in là con quello che è una post dance che diventa di fatto insomma una impro elettronica molto molto interessante per tutte le aperture sia jazzistiche che dà e anche insomma quel lavoro sul suono che da sempre porta avanti Maurizio, se vogliamo chiamarlo ancora così, visto che era conosciuto così negli anni 90 nel periodo Basic Channel, nel periodo insomma in cui creava quel suono dub techno, dub elettronico eccezionale che poi mille cercheranno di imitare in varie maniere, riuscendoci o non riuscendoci insomma a questo poi da Baro Friedman in poi bisogna un po' capirlo, Paul e tanti altri che hanno fatto anche ottimi lavori, però sicuramente partendo dagli esperimenti sonori di Maurizio periodo Basic Channel, John Atkins maestro e padre del suono techno di Detroit, uno dei momenti chiave delle musiche elettroniche già dalla seconda metà degli anni 80 o addirittura primi anche anni 80, visto che il suo suono elettro era assolutamente futuristico, i suoi pezzi come Cyborg, Cybotron come cyborg musicale poi di fatto faranno anche lì scuola e adepti di ogni risma e porteranno appunto il mondo sonoro in quella fuga che ancora continua per tanti aspetti a livello musicale, se vogliamo con tante riscritture proprio di quei padri che abbiamo appunto già intravisto nella prima parte di 451, trattando appunto le traslazioni di John Carpenter, di Moroder, di Ital, che si rifacevano appunto a tanto a Detroit come a Lause, appunto tirata in ballo anche la traslazione di The Chase di Glenn Underground, come quella di Ron Hardy, altro nome insomma che prima non abbiamo citato, ma se ne potrebbero citare veramente tanti e tanti, e poi appunto arrivare nella chiusura, nella chiosa della prima parte di questo Escape from 451 che chiude ufficialmente, poi ufficiosamente non sappiamo ancora, appunto qualche extra ci potrebbe essere nel corso dell'estate, di 451, quindi una fuga nostra, von Oswald appunto e John Atkins con il loro Borderland. E per andare a trovare un altro dei maestri, forse misconosciuto o forse conosciuto sotto un altro ambito, sicuramente quello di tecnico del suono di Can e altra formazione sabotatrice delle elettroniche e di tutto il linguaggio rock, pararock, kraut che hanno inventato anche di fatto insieme a Faust, a Noi, Kraftwerk, insomma, Cluster, eccetera, eccetera, insomma, poi di faccende Kraut, e qua 451 ce ne intendiamo abbastanza. Se insomma volete farvi una full immersion, potete anche recuperare dal blog, dal nostro 451 frammentisonori.noblogs.org, anche due belle trasmissioni piuttosto insomma articolate, fate appunto anche in questo caso con Tetro, Jerry e una anche con il magistrale Gino Soler e Bruno Sperry, svizzero, tecnico del suono appunto negli anni 70 di Cannes, leggendaria formazione tedesca, e, ma già attivo dal 1974 con lavori suoi legati a film oscuri, sperimentali, oppure anche jingle, tutto quello che riguarda anche la library, quindi le sonorizzazioni varie da Bruno Sperry, che vanno veramente a rintracciarsi tanto nelle materie sonore sperimentali, quanto in una musica, library per ricerca sonora dentro appunto situazioni o filmiche o di sonorizzazioni documentaristiche o ambientali di vario aspetto, tra cui anche, perché no, parlare anche di groove e di ritmicità sperimentate da questo svizzero genialoide. E proprio in questi giorni tra l'altro viene stampato un gran lavoro, Teddy Barr e Lilith, due lavori del 79 e dell'83, soprattutto Lilith insomma brilla per sperimentazione. Noi andiamo a prendere invece da un lavoro che riprende sempre vecchi materiali e, appunto del genialoide svizzero, anche lui creatore di fughe sonore e immaginarie assolutamente straordinarie, e Klugspiegel, e l'album appunto da cui andiamo a trattare Klugspiegel, parte di Bruno Sperry, che si divertiva tanto a creare sonorità ritmiche eccezionali, fuori insomma dalla norma, per senso groovistico, quasi una sorta di jazz funk lunare, e in questo senso appunto assolutamente scapico, e tanto anche così legato a una sorta di funk lounge che entra dentro elettroniche anch'esse piuttosto lontane, piuttosto insomma extraterrestri, come tanto poi del visivo trattato da Bruno Sperry, sia come sonorizzazioni ma anche come immaginario poi dentro il suo lavoro, dentro le sue cover, copertine di dischi che si rifanno insomma a un immaginario space age deviante, assolutamente anticipatore anche di certo Weird, che tanto insomma solca l'underground in questi anni. Ci andiamo appunto ad ascoltare Bruno Sperry per allontanarci nuovamente e andare in fuga verso strani pianeti sonori tratti appunto da strane forme immaginative. Thank you. anche delle allucinazioni sonore di Bruno Spoerri, con tanto di allunaggio fantastico, a uno dei suoi figliocci sicuramente, Belbo Lipoli, con le sue fiabe e le sue fughe temporali, figlioccio tanto di Bruno Spoerri quanto di certo Raymond Scott, quanto di certo visivamente e anche sonoramente BBC Workshop Recording, e quindi tanto Dottor Who e quant'altro possiate immaginare come fuga temporale e anche a questo punto, perché no, spaziale, nel senso appunto fisico. Thank you. Thank you. E la fuga è talmente scapica dentro Belboli Poli che diviene definitiva, quindi una perdita dentro o fuori tempo anche massimo, se vogliamo, e quindi un vagare dentro sì, o dentro fuori, che qua veramente non c'è più la differenza, proprio per senso di smarrimento voluto e cercato e anche trovato a livello musicale tra spazio e tempo, trovandosi così accidentalmente dentro un mondo di fantasmi, come d'altronde è l'etichetta di riferimento di Belboli Poli, la Ghost Box, che può andare tanto da Dottor Who quanto a un mondo immaginifico tra presente, futuro e passato, ecco, veramente senza una definizione netta di questi tempi. E se negli anni 10, insomma, soprattutto con la Ghost Box, la fuga sembra veramente definitiva e quindi la perdita, lo smarrimento voluto e cercato, sottolineo la cosa, invece così prendendo gli anni 90 che abbiamo un attimo accennato prima, che abbiamo per insomma molti aspetti in sottofondo in questo momento, e andiamo a prendere uno di quei pezzi che la diceva lunga e la dice ancora su quanto la fuga fosse ancora chiaroscurale negli anni 90, con premonizioni sì di futuri neri, ma anche con una forma ancora, se vogliamo, felice, legata alla fuga, insomma una fuga ancora luminiscente per tanti aspetti. E andiamo a prendere da tre personaggi assolutamente eccezionali di quella decade, per ricordarci e per insomma andare anche noi in una sorta di fuga temporale, e quindi andando direttamente dentro il cuore di quel suono escapico fortemente e rilevante per quanto riguarda insomma un recupero tutto in fase di riscrittura degli anni 70, quindi di un certo cosmice, come di certa ambient iniana. E andiamo a prendere appunto un remix su Gentle People, che trattavano alla lontana il suono neo lounge degli anni 90, remixati qua da un certo Richard D. James, e poi mondi assolutamente distantissimi e veramente con anche una luce fortissima e quasi abbagliante di Black Dog con la loro Coast, e poi Uzik, che rilegge appunto il buon Richard D. James, questo sconosciuto, e sulla sua magnifica On, forse uno dei remix più belli, più veramente illuminanti in tutti i sensi, sia in senso appassionato a livello musicale, sia per visionarietà, veramente, che spinge in là tanto un pezzo che già di per sé era assolutamente suggestivo e quantomeno fantascientifico. Ci andiamo a tuffare appunto direttamente dentro un'altra decade che ancora non è di moda, quindi ne approfittiamo quantomeno per farlo qua dentro questo viaggio finale, non si sa, comunque, di Escape from 451 frammenti sonori, perlomeno finale per questa stagione. Vi preoccupate, sì, se qualcuno magari ha modo di preoccuparsi, perché magari ci sono ben altre preoccupazioni in questo momento, in fuga, via. Thank you. Thank you. Tra i momenti veramente più emozionanti, più luminiscenti degli anni 90, remix su Gentle Giant fatto da Richard David James, che dovreste conoscere sotto altro nome, sicuramente questo è il suo nome di battesimo, e Black Dog con loro Ghost e Yuzik appunto su questo personaggio, insomma, che non citerò e se non con il suo nome, appunto Richard David James, e sulla sua già meravigliosa On, una sorta di corsa nel tempo all'impazzata, una fuga in avanti quasi impossibile nell'impossibilità, appunto questa immagine anche violenta di un tentativo di fuoriuscita, forse un tentativo insomma definitivo, e in questo senso anche una rottura spazio-temporale che porta insomma dagli anni 90 verso un altrove, probabilmente anche sonoro, lambito comunque da vari personaggi che giravano tra Warp e Reflex, e che per un momento insomma ha visto un momento gioioso in termini musicali, un momento appunto di azzeramento spazio-temporale, quei momenti insomma molto molto forti che insomma in termini musicali succedono quando ci sono grandi strappi generazionali. Qua lo strappo generazionale era dovuto anche al fatto di riscrivere le cosmicità, come dicevo prima, e ambient che comunque erano tra le corde anche di certe faccende musicali anni 80, come abbiamo sentito prima, però l'esplosione sicuramente luminiscente sarà negli anni 90. E se dobbiamo concludere con una fuga, anche questa è una corsa in avanti, anche questa è una corsa disperatamente speranzosa, quella di ZS, sibilante, Z appunto ed S, il nome della formazione tra le migliori degli anni zero, e che si affacciano insomma a questi anni 10 in maniera brutalmente stupefacente, veramente con loro si può parlare di una sorta di art rock della follia, rimando tanto a una trance minimalista, quanto a un mondo elettronico, quanto rock, che evidentemente cerca una mutazione e cerca una spinta che va a vedere, insomma, in un futuro tra impossibile e possibile. Anche qua, insomma, la follia regna sovrana, una musicalità che comunque non è affatto così dovuta o insomma improvvisata lì sul momento, una musicalità anche decisamente cercata, una sorta di avviamento alla follia che ZS veramente compiono in maniera azzardata e per questo, insomma, molto affascinante, tra appunto e rimandi tanto elettronici quanto rock, quasi a non definire più, e quindi in questo senso avanguardistica, ecco. Sì, ZS, quindi dal loro Grain, uscito da pochi giorni, e poi dopo appunto un saluto per augurarvi, insomma, una buona Summer of Love. Chissà che se lo sarà. Thank you. Io su questo deragliamento sonoro vi saluto. Max Macchi appunto vi rimanda alla prossima stagione di 451 frammenti sonori e chiaramente porto alla lontana anche, o anche per tanti aspetti alla vicina, i saluti di Eliseo Scarpa e di Lorenzo Albano. Una buona estate per quello che può significare, insomma. Poi d'altronde qua 451 magari è una buona estate, potrebbe essere una buona estate per qualcuno e cattiva per altri, nel senso che insomma magari le cose girano in maniera differente, insomma, e potrebbero, non è detto, però in nuce c'è anche questa cosa. E appunto, come dire, un lungo abbraccio da Max Macchi, un abbraccio chiaramente sonoro e appunto dentro una fuga che questa sera abbiamo titolato Escape from 451, anche un enorme augurio di fuga in avanti che vi fa il sottoscritto e non solo, mi sa che insomma anche gli altri due sono appunto per fare fughe decisamente in avanti. Ciao, alla prossima.